Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Forse c'era anche un lontano timore, che era quello di non venire preso, di essere lasciato lì, in quel brefotrofio, con quei compagni occasionali, senza famiglia. E lui aveva avuto paura di vedere sfumare in quella lunga attesa di bambino la possibilità che i suoi genitori adottivi si presentassero a prenderlo. Temeva ci avessero ripensato e che non sarebbe andato a vivere in Italia, dove avrebbe avuto una casa e una famiglia. Chiamo Marisa Monteferri, vivo a Velletri da sempre, Velletri in provincia di Roma, lavoro in una redazione giornale locale, poi gestisco un'associazione di poeti. Provate a fare una cosa, provate a mettervi nei pannolini di un bambino impegnato a cercare di capire come parlare alla maniera dei suoi genitori, dei suoi amici e dei suoi fratelli. Allora, avete imparato qualche migliaio di parole e avete una vaga idea, inconscia ovviamente, della differenza tra soggetti, verbi e oggetti. C'è sta roba che i verbi continuano a riversarvisi addosso e mentre li imparate dovete capire come usarli. Sapere quello che un verbo significa non basta, no? Si deve prestare attenzione agli elementi che accompagnano il verbo nella frase. Ad esempio, mettiamo che abbiate udito per la prima volta il verbo caricare, no? In una frase tipo Al sta caricando fieno sul carro. Che è una cosa che capita sempre, no? Di sentire una frase tipo Al sta caricando fieno sul carro. Mettiamo che abbiate un'idea di che cosa queste parole significano ed essendo presenti lì sul posto, mettiamo che vediate Al che sta lanciando forcate di fieno dentro a un carro. Potete con relativa sicurezza archiviare l'informazione che caricare può comparire in una frase con un soggetto che esprime colui che carica un oggetto, cioè il fieno, e poi all'interno di qualcosa che è un carro. Ora potete capire oppure enunciare voi stessi nuovi esempi di frase con lo stesso verbo, giusto? Dopo un po' però udite ancora, mi seguite, la parola caricare in una nuova costruzione, che è Al ha caricato il carro di fieno, sempre Al è sempre il carro di fieno, non ho mai visto un carro di fieno in vita mia, però lo potete immaginare. Ancora una volta del fieno viene gettato a forcate dentro a un carro e per quanto potete vedere la frase ha lo stesso significato di quella familiare, cioè Al ha caricato fieno nel carro. Ora potete fare un'aggiunta ufficiale alla voce caricare nel vostro dizionario mentale. Erano, devo dire, mesi no, perché abbiamo cominciato il 5 di settembre, erano giorni però che io aspettavo la puntata di oggi. Perché la puntata di oggi ha a che fare con una roba che mi ossessiona, che sono le prime frasi che i bambini dicono nella loro vita. Non le prime parole, non le prime parole. A parte che, perché di solito sono facili le prime parole, vabbè, mamma, papà, pappa, quella roba lì. Però poi ci sono parole particolari che vengono dette e quindi rimangono nella memoria della famiglia. Perché, ti ricordi che ridere, ha detto cacca, oppure ha detto bicicletta. No, non sto parlando delle parole, sto parlando proprio delle frasi. Cioè, frasi che hanno comunque un loro senso compiuto e che vengono dette da bambini di 2 anni, 1 anno e mezzo. E questo è un pezzo tratto da una specie di manuale, che adesso vi dico anche qual è, perché Margherita me l'ha scritto, però non lo vedo, me lo ridici dopo Margherita, perché non vedo dove me l'hai scritto. Ah, va bene, dopo diciamo, è un manuale in cui si racconta come imparano a parlare i bambini, perché oggi voglio sapere esattamente quella cosa lì, qual è stata la prima frase della vostra vita. 349-238-6666. Oppure voi siete qui, @radio24.it, ma l'SMS è più facile. 349-238-6666. Proprio la primissima che avete detto. Vi faccio un esempio. Adriano su Facebook scrive: la prima frase è stata Forza Roma. Antonella, la prima frase di Antonella è stata: Antonella vuole quello. Più o meno così. Antonella vuole quello. Cioè, quindi determinazione. E poi Rebecca: un giorno, a circa 1 anno e mezzo, mentre mia sorella guardava Il Cucciolo, che è un film... è quello in cui c'è il boxer, credo, Il Cucciolo. Vabbè. Sì, mi pare di sì, è quello in cui c'è un bambino che è figlio di uno che fa pugilato. Vabbè, ma chi se ne frega. Io dal box, scoppiando a piangere, dissi qualcosa tipo Mico pum mico. Però questa non vale, Rebecca. Cioè, abbiamo detto frase di senso compiuto, non Mico pum mico. Così mia mamma capì che l'avevo seguito anche io. Tua mamma era un genio, oserei dire. Ovviamente non è stata la prima frase in assoluto, ma quella che racconta con più orgoglio probabilmente tutta la mia vita. E poi questo è Marco, è un genio. Alla domanda "ma perché non parli mai?", la risposta è stata "io ascolto". Se vi ricordate, è difficile, ma se vi hanno raccontato qual è stata la prima frase che avete detto nella vostra vita, che in qualche modo, questa è la mia convinzione, vi ha segnato. 349-238-6666. Visto che sì, c'ho una sorta di trip per questa questione, tempo fa mi ero andato a cercare, cioè avevo scoperto che esiste una tribù nel Centro Africa in cui i nomi ai bambini si danno solo quando il bambino ha detto qualcosa che non sia solo un pianto, ovviamente, ma quando ha detto una piccola frase, si sono potute cogliere delle parole. Questo vuol dire che ci sono bambini che rimangono senza nome per mesi, magari, oppure anni, e appena dicono qualcosa il padre o la madre va da questa figura, queste figure che ci sono insomma in queste tribù, in questi villaggi del Centro Africa, che sono per lo più sciamani, se ha senso dire qualcosa, dire sciamani in questo caso. Vanno da questo sciamano, gli ripetono esattamente quelle paroline che il bambino ha detto e lo sciamano ne deduce un nome. Ora, immaginate che nomi ci hanno i figli di queste tribù, non lo so, però quella proprio è all'ennesima potenza l'espressione di come la prima frase che noi abbiamo detto ha segnato noi e tutta la nostra vita. 349-238-6666, si parla esattamente di quella cosa lì, della prima frase che avete detto, perché è arrivato un racconto mesi fa, è un racconto di Marisa, che parla appunto di un episodio suo, di un episodio che ha vissuto e che riguarda i suoi figli, cioè i suoi figli adottivi. Uno in particolare, quando sono andati a recuperarlo in Colombia, ha detto una frase che appunto è la frase che ha dato il titolo a questo racconto e che in qualche modo forse racconta qualcosa anche di questo bambino che adesso è grande, mi pare, ma poi lo chiediamo direttamente a lei. 349-238-6666, oggi è la prima frase della vostra vita, questo invece è il racconto di Marisa. A causa della nebbia, l'aereo delle 8 che da Bogotà porta a Medellin riuscì a partire solo verso le 10. Pertanto arrivammo alle 12. Dall'aeroporto un taxi ci portò a destinazione, ma intanto s'era fatta quasi l'una. Arrivammo presso una palazzina bianca, da dove veniva un gran vociare. Pur sotto la calura quasi estiva della Colombia, che toglieva il fiato, c'erano decine di bambini che giocavano, urlavano e si spintonavano. Entrammo attraverso un cancelletto sgangherato, in un bianco, lungo corridoio, piuttosto fresco. Lì stavano assiepati altri bambini, come in attesa di qualcosa. Uno in particolare, con la pelle color terra, si staccò dal gruppetto e, venendoci vicino, tutto fiero e tutto serio, ci apostrofò con un'aria di rimprovero e, piuttosto seccato, ci chiese: "Perché dimoraste tanto?" Beh, di una grande gioia comunque, fermo restando che erano due, quindi due in un colpo solo. Erano due, diciamo, fratelli. La preoccupazione nostra era per l'appunto che questi bambini stavano aspettando, e poi quando siamo arrivati c'è stata un'esplosione di gioia da entrambi le parti. Le mie poche parole di spagnolo appena imparate non comprendevano una frase così complessa. Però l'intuizione mi fece capire il senso di quel discorso, che semplicemente voleva dire: "Perché siete arrivati in ritardo?". E c'era in quelle parole un rimprovero, ma anche una forte curiosità infantile, e probabilmente l'insondabile tensione psicologica di un bambino che attende qualcosa e qualcuno che tarda ad arrivare. Riuscii a raccontargli, già sapendo ovviamente che l'orgoglio non gli permetteva di ascoltare o di accettare spiegazioni, comunque riuscii a raccontargli che l'aeroporto era stato chiuso per un po', ma mi chiesi anche se quel bambino, che non aveva mai visto un aereo se non in TV, o tantomeno un aeroporto, potesse capire cosa volevo dire. Mi parve di sì, ma poco dopo lui ripeté la sua domanda, uguale, come a volermi cogliere in contraddizione. Per lui tutto quello che avevo detto non valeva, per qualche strano motivo. Per lui forse quel ritardo non dipendeva da fattori estranei, ma da un ritardo contingente, da qualcosa di personale, probabilmente voluto, come spesso accade con i bambini che per troppo giocare in strada con i compagni poi arrivano tardi a cena. Ripetemmo le stesse parole, che erano la semplice verità, la stessa cosa, la stessa giustificazione, molte altre volte ancora. Ma il piccolo non si sentiva mai rassicurato. Forse c'era anche un lontano timore, quello di non venire preso, di essere lasciato lì, in quel brefotrofio, con quei compagni occasionali, senza famiglia. E lui aveva avuto paura, aveva avuto paura di vedere sfumare in quella lunga attesa di bambino la possibilità che i suoi genitori adottivi si presentassero a prenderlo. Temeva ci avessero ripensato e che non sarebbe andato a vivere in Italia, dove avrebbe avuto una casa e una famiglia. Sì, il bambino aveva 7 anni e la sorellastra ne aveva 11, insomma, era molto più grande e comunque di carattere più difficile, e lo è tuttora. Però insomma devo dire che si sono integrati molto bene. Il piccolo ha 23 anni e la grande ce n'ha 27, è sposata con un bambino. Quella domanda rimase una costante nel suo vocabolario, anche dopo aver visto un aeroporto, dopo aver viaggiato finalmente in aereo, ma qualcosa non gli procurò particolare emozione. Quella stessa domanda però gli frullò per la testa anche dopo, anche mesi dopo, quando si fu trasferito in Italia, quando si fu inserito nella famiglia, nella scuola, nelle frequentazioni di amici, di parenti. Non di rado all'improvviso ancora ci guardava e ci chiedeva perché dimoraste tanto. Poi dopo, quando la lingua spagnola e quella italiana gli si mischiarono nella testa e senza saperlo incominciò a parlare la seconda, dimenticando quasi completamente la sua lingua madre, la domanda non ci venne più posta. Non sappiamo se nella sua mente sia stata cancellata o resiste ancora, magari nascosta sotto altre domande, ma questo è il primo indebile ricordo che ho di mio figlio, Carlos Mario. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day, but the mother and child reunion is only a motion away. Sì, perché ho una specie di teoria sulle prime frasi che un bambino pronuncia nella propria vita. E come dicevo, non parlo delle parole singole tipo mamma, papà o ciuccio, oppure delle sequenze, quelle camion papà, mamma, pappa, mamma. No. Parlo di quando, con una sorta di salto epocale di cui Darwin probabilmente andrebbe fiero, un bambino costruisce una frase di senso compiuto, anche breve, usando tutte le regole sintattiche che fino a quel momento gli sono state insegnate, oppure che ha appreso ascoltando i suoi genitori. Sono frasi semplici, magari anche complesse, però sono il primo momento in cui si esprime un concetto vero e proprio. E la mia teoria è che solo raramente, anzi mai, si tratti di frasi casuali. Al contrario, sono frasi che segnano una vita, che torneranno come corsi o ricorsi nell'arco di tutta l'esistenza, in qualche modo strano. Nel caso di Carlos Mario non sappiamo nemmeno se quella sia stata la prima frase che ha detto, però di certo è la prima che i suoi genitori hanno ascoltato quando sono arrivati là. E in più è quella che in qualche modo ha continuato o continua di tanto in tanto a dire, a ripetere. Un po' per ricordare a mamma e papà che si devono sentire in colpa perché alla fine i figli, no? Servono anche a questo. Un po' come i genitori poi servono ai figli per questo. E un po' perché è probabile che quella paura, quella di essere abbandonato, di non essere preso, di essere illuso, poi deluso, probabilmente è un sentimento che Carlos Mario si porterà sempre dietro, magari a dosi piccole, omeopatiche. E probabilmente gli servirà anche per affrontare le delusioni che arriveranno immancabili da tutte le parti. Non dai suoi genitori, dico dal mondo probabilmente sì però. Quella domanda è diventata un po', in parte, il suo destino. E allora ripenso alla prima frase delle persone che conosco. In realtà nessuno di quelli a cui ho chiesto si ricorda granché, nessuno tranne il mio amico Giuliano. Giuliano è una persona molto precisa, avete presente del genere ossessivo compulsivo. Ha una discreta mania di controllo e se le cose non vanno come lui aveva programmato, quantomeno si innervosisce. Una persona docilissima, ma non fategli mai delle sorprese perché potrebbe venirgli un infarto. Ecco, lui si ricorda benissimo la sua prima frase, perché lui si ricorda tutto, e quello che non ricorda lo chiede in giro e ne tiene nota. E la sua prima frase la disse a sua madre, in cucina, mi diceva lui, mentre lei era alle prese con i fornelli e le verdure. Lui non sapeva cosa si dovesse dire o fare, ma prese in mano una carota e brandendola come una spada disse «Ci penso io». Ecco, quella era la storia della sua vita. La prima frase invece, la mia prima frase, secondo me è ancora più chiara. In fondo la mia teoria nasce tutta da lì, ovviamente. E a dire la verità io non è che me la ricordi perfettamente, perché ero abbastanza piccolo. Però è rimasta talmente impressa a tutti ed è così intimamente legata alla mia vita, che ormai ce l'ho dentro, è come se facesse parte di me. e avevo 2 anni ed ero a casa dei miei zii dove stavamo festeggiando il compleanno di mio cugino che di anni invece ne compiva 15. Lui era davanti alla torta tutto contento, circondato dai parenti, dai regali e anche qualche amichetto con cui fare bella figura e magari a cui offrire Fanta, salatini, magari anche qualche femminuccia con cui farsi bello. Insomma, tutti questi particolari ovviamente me li hanno raccontati dopo. Come anche il fatto che a un certo punto, quando lui ha spento le candeline, tutti hanno battuto le mani e hanno cominciato a dire discorso, discorso, discorso, come se si aspettassero da un quindicenne chissà che frasi celebrative. E infatti ovviamente lui era imbarazzato e se ne stava zitto davanti alla torta e quasi non aveva nemmeno voglia di prendere il coltello e tagliarne un po' di fette. E allora io, che, ripeto, ho 2 anni, sposto una seggiolina vicino a lui, ci salgo sopra in piedi e mentre tutti mi guardano chiedendosi che cosa stia per fare, io dico le seguenti parole. Parlo io, parlo io. Ovviamente non avevo niente da dire, e forse non ce l'ho nemmeno adesso. Ma che il mio destino sia cercare di stare sempre in mezzo all'attenzione, parlare, parlare, beh, non ci vuole una maga per capirlo. Era scritto, fin dall'inizio. Sono le 16.22, questa è Radio 24, oggi si parla della prima frase della vostra vita. 349-238-6666, ringrazio chiunque mi abbia mandato questo messaggio, anche se non capisco il motivo. Teo, mi sa che ti sei dilaniato di acidi, bella zio, non so chi sia, se si firma mi fa un piacere, almeno capisco da dove arriva, se ti conosco oppure no, ma soprattutto non capisco perché, visto che in realtà di gente che si ricorda a cui hanno detto quello che è stata la loro prima frase, ce n'è, vi faccio un esempio. Laura, sono la terza figlia e la mia prima frase è stata fatemi posto. E invece Sergio da Bergamo, la mia prima frase è stata ehi, io sono qui. La prima frase che ho detto a mia sorella è stata ho sete. Non aveva mai bevuto acqua, ma da quel giorno... La prima frase che ha detto mia sorella è stata ho sete. Non aveva mai bevuto acqua, ma da quel giorno ha cominciato a farlo. Come non aveva mai bevuto acqua? Com'è possibile? Cioè perché aveva bevuto solo latte? Vabbè, Sergio, passami il sale. Vedi, qui è quando veramente le prime frasi della tua vita ti segnano. Passami il sale. Elena, gonna no? Ah no, gonna no. No, non interrogativo, gonna no, cioè non voglio la gonna. 349-238-6666. Torniamo invece alla prima frase che è rimasta impressa a Marisa e che forse anche a Carlos Mario. Pronto, Marisa? Sì, sì, sono qui. Ciao, come stai? Ciao, tutto bene. Grazie per essere qui, Marisa. Grazie per l'opportunità. Sei a Velletri? Sì, sono a Velletri. Ma scusami, Velletri esattamente è a sud, a nord? A sud di Roma. A sud di Roma, ok. Sì. Senti, sei in casa Marisa in questo momento? Sì, sono in casa. Che stavi facendo? Niente, stavi ascoltando. Adesso niente. Mi dici questa cosa, poi andiamo alla questione che è sicuramente più interessante. La cosa che fai parte di un'associazione di poesia, no? Di un gruppo di poesia. La Vigna dei Poeti. Scusami? La Vigna dei Poeti. E cosa fate? Vi trovate e componete? No, componiamo quando a casa e poi leggiamo le nostre cose ovunque. Ma nel senso che poi fate dei reading di poesia? Sì. Non si chiamano reading quelli di poesia, scusami, no? Sì, comunque sì. Senti, ma come è nata questa cosa? Ma è nata dall'idea di stare insieme, quindi noi siamo legalmente riconosciuti, fra l'altro, e amiamo la poesia. Senti, quanti anni hai, Marisa? Non ce lo volevi dire, non ce lo volevi dire prima perché dovresti dirlo adesso, giusto? Va bene, ho superato abbondantemente il mezzo secolo. Benissimo, anche il tuo telefono non è messo tanto bene però Marisa, perché si sente uno scratch che era quello di, mi ricordo quando chiamavo mia nonna col telefono a rotelle. Però se tu stai ferma così ci arriviamo. Come sta Carlos Mario? Come sta Carlos Mario? L'abbiamo preso molto a cuore bene, adesso. Molto bene, lui adesso fa un po' di sport e quindi va a giocare a pallone. Ma vive con voi ancora? Sì, ho 23 anni. Mi fa un po' strano dire la verità, sai, perché avendo letto la sua storia e quindi immaginandomelo, a quanti anni aveva quando... A lui aveva 7 anni. 7 anni, quindi quasi 20 anni fa, no? Quindi 15 anni fa. Mi sembra, sai quando parli tipo di una persona che non è presente? Perché di fatto non è presente, però chiedere a te di lui mi sembra un po' di fare del gossip spinto, però tu mi dici che lui sta bene e non l'ha più chiesta poi questa cosa. No, solo quel giorno. La prima domanda è stata quella: perché dimoraste tanto? Perché ci avete messo tanto tempo ad arrivare? Ma perché lui sapeva che stavate arrivando, ovviamente. Sì, era stato avvertito dagli psicologi, credo. Senti, e c'era una sorella anche che adesso è... c'è una sorella che adesso è mamma, è più grande. E che non vive più con voi, invece? No. E cosa, oltre a giocare a calcio, cosa fa Carlos? Ma veramente mi sembra davvero di farmi i fatti suoi, però sono un po' curioso. Ci facciamo i fatti loro. Facciamoci i fatti loro. Cosa fa? Studia, lavora? No, studia no. Lavorare non tanto, perché è un momento di crisi. Mm-hmm. E sta, aiuta un po' a casa, che qui pure c'è bisogno di c'è da mano. Fare. Senti, è mai più tornato o sono mai più tornati in Colombia? No, non sono più tornati loro. Forse lo faranno in futuro. Io per me non ci torno più, perché comunque è una cosa impressionante ciò che si vede o che ho visto, insomma. E senti, è stato molto complicato tutte le pratiche della prenotazione? No, non tanto la burocrazia, ma quanto il posto, perché loro sono stati presi a Medellin, che all'epoca era tristemente famosa per le questioni di droga. Per il cartello, certo, anche perché erano, ripetiamo, 17 anni fa, tipo. Sì, ma ci avevano avvertito, appena arrivati, di non lasciarli mai assolutamente, insomma, di tenerli sempre per mano, perché ci li potevano strappare da un momento all'altro, proprio dalle mani, e portarseli via magari per essere rivenduti, per il traffico degli organi. Insomma, è una questione molto brutta. Vabbè, mi fa piacere sapere che è a giocare a calcio in questo momento, Carlos Sbarra. Sì. Ti ringrazio, Marisa, ti ringrazio per il racconto e per la tua voce, che è quasi calmierante. Se hai voglia di mandarci, oltre a questo racconto, anche magari una o due tue poesie, io le leggo con piacere. Grazie mille. Grazie a te. Ciao Marisa. Grazie, ciao. Grazie, ciao, buona giornata. Senti questo, prima frase, chiaramente cantata e non detta da Stefano: lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Voi siete qui. Marisa è una bella signora. Nella foto che ci ha mandato lo si vede chiaramente. Ha i capelli biondi, ha gli occhi chiari. È ad una festa, credo, tipo ad un banchetto, a un pranzo di quelli all'aperto. Deve essere primavera, perché le piante sono verdissime, le foglie sono ancora piccole. C'è un sacco di luce e ha nei capelli un fiore lilla, una calla, le calle sono quelle che sembrano degli alberi. Non lo so, che fiore sarà? Margherita non lo sa, Paolino neanche. Andate a vederlo voi sulla foto radio24.it. No, sui fiori proprio non ci siamo. Scusa Marisa, magari se stai ascoltando mandami un sms per capire che fiore è. 349-238-6666. Quando la prima frase che ci diciamo ci segna per tutta la vita. Daniele da Roma: la prima frase di mio figlio a 3 anni, una volta che mi vide angosciato, per consolarmi mi disse: la vita è un gioco difficile. 3 anni. La prima frase detta da mia figlia Gabi, tra le sue primissime parole, fu: e che cazzo, imparata da suo fratello Maurizio, che aveva 16 anni. La prima frase l'ho detta che avevo 2 anni, ero rimasta incastrata tra due poltrone e prima di scoppiare a piangere ho gridato: le sedie non si spostano! I miei si sono ammazzati di risate perché la mia prima frase è stata: Galbani vuol dire fiducia. E vabbè, qui insomma, generazioni rovinate. Io per primo, cioè io faccio parte di quella generazione lì, ovviamente, rovinata, per cui sentivi la canzoncina e dicevi: ah, ma qual è la pubblicità dei biscotti? Ines da Torino. La prima frase è stata: zitte, basta parole, detto alle amiche di mia madre, che erano veramente terribili. Tra l'altro, allora, a parte che Margherita mi ha detto da dove è stato tratto la cosa che vi ho letto all'inizio, Steven Pink, io ho perso delle diottrie, per cui a quello schermo là non ci arrivo più. Aspetta che sposto il microfono. Ok. Steven Pinker, Fatti di parole, la natura umana svelata dal linguaggio, perché effettivamente da grande avrei voluto fare il linguista. Non è vero, no, per farmi bello dicevo che da grande volevo fare il linguista, poi non è vero. Però ho trovato un'altra cosa che riguarda proprio quante parole conoscono i bambini. I bambini prima di cominciare a parlare conoscono già 500 parole, che mi sembrano una marea. A un anno i bambini pronunciano la prima parola, ma a 6 mesi il loro cervello ha già immagazzinato centinaia di parole. Fin da piccolissimi distinguono le vocali corte da quelle lunghe e le interpretano secondo le regole della lingua madre. Ad esempio, se vengono pronunciate da uno straniero, notano le differenze. E poi c'è un'altra cosa che mi sta molto a cuore, che riguarda il modo di parlare dei genitori ai figli. Avete presente quando i bambini parlano ai genitori? Ma anche quando non i genitori, quando gli zii o comunque amici dei... adulti, dei genitori, parlano con i bambini. Gli adulti, quando hanno a che fare con i bambini, adottano spesso un linguaggio fatto di parole storpiate. e appena i piccoli cominciano a parlare in modo impreciso perché non sono ancora in grado di articolare tutti i suoni, ne copiano le modifiche. Ecco, questo è un errore. Confonde i bambini su quale sia la parola corretta. Se lui dice appa invece di acqua, non correggetelo, ma nemmeno adottate la sua versione. Continuate piuttosto a pronunciare la parola in modo corretto. E soprattutto tutte quelle robe gni, bibi, no, anche no. 349-238-6666. La prima frase di mio figlio Nicolò: voglio la coca. Raffaella, la prima frase è stata una... La mia prima frase è stata una somma: 5 e 3, 8. In matematica non ho mai avuto problemi. Cristina. E poi è arrivata una storia che era abbastanza simile alla storia di Giuliano, il mio amico di cui vi parlavo prima. Però è interessante perché Carla mi ha scritto una mail in cui mi spiega come la sua vita è andata in una direzione. E poi un giorno ha scoperto qual era stata la prima frase che aveva detto. Caro Matteo, la prima frase che ho detto da bambina è una frase che mi ha segnato per il resto della mia vita. Il fatto però è che l'ho scoperta in età adulta, un giorno, quasi per caso, mentre sbucciavo dei fagiolini con mia madre. Ho 52 anni, lavoro in una multinazionale farmaceutica. È un lavoro che mi piace molto, anche se occupando una posizione dirigenziale le responsabilità e lo stress sono quotidiani. Vedi, io ho sempre impostato la mia vita cercando di governarla completamente. Non c'era nulla che potesse sfuggire al mio controllo o alla mia attenzione. E questa è una cosa con cui convivo da sempre. Ho sempre bisogno di fare le cose come vanno a me. Mio marito ci ha già fatto la pace con questa cosa. Io no, non ancora. Non ci riesco. Quando mio padre è mancato un paio di anni fa, sono quasi impazzita. Mi sembrava assurdo che io non fossi stata capace di impedire che quella cosa accadesse. Non riuscivo a concepire che qualcosa di quel tipo sfuggisse al mio controllo. Ti scrivo tutto questo oggi per il semplice fatto che questo mio modo di essere c'era già, tutto, sin dall'inizio, sin da quando ero bambina, da quando dissi la prima frase della mia vita, la prima frase di senso compiuto, intendo dire. Però ho scoperto proprio qualche giorno fa, mentre sbucciavo i fagiolini con mia madre, che la prima frase intera e sensata che io ho detto è stata: lascia, faccio io. Quando l'ho scoperto, giuro, quasi mi sono messa a piangere dalla gioia, perché mi è sembrato di liberarmi da una responsabilità. Mi è parso che in quella frase ci fosse già tutto il mio futuro, tutta la mia vita, nella prima frase della mia vita. Lascia, faccio io. La mia prima frase è rivolta a mia mamma: ma sei capace? Doveva aprirmi il biberon. Pensa che simpatica. Poi ce n'è una in francese invece, eccola qua. La prima frase a un anno e mezzo è stata, ed è stata profetica, Monique Marche toute seule, che credo voglia dire Monica va avanti, fa le cose da sola, va avanti, cammina da sola, e credo che Monica sia lei. Mio figlio da piccolo, 3 anni, disse: voglio fare il calciatore, ne ha 18 e gioca in Serie C. Olè! Poi questa evidentemente delle mie parti e delle parti anche di Margherita. L'abbiamo già detto Margherita, siamo dello stesso paese, perché il nepotismo esiste, giusto? Per quel motivo lì, che sei proprio di Romentino. Romentinesi Radio 24: preferisco il gorgonzola, è stata la mia prima frase. Mi piace ancora, ma ho il colesterolo troppo alto. E poi mi raccontano che dissi all'età di 2 anni: precedimi sulle scale che io ti seguo. Pensavano fossi un genio, hanno avuto modo di ricredersi. Micaela. E poi ancora, dormire una perdita di tempo, avevo 3 anni. E poi invece stralci di poesia. Mio figlio di 3 anni, guardando la luna, ha detto: che bella la luna, l'ha fatta la mamma la luna. E ancora riguarda la luna, Pietro, 2 anni e mezzo: mamma, guarda che bella la luna, ci siamo mai stati? E poi ancora, nemmeno 2 anni, indicando mia sorella, di un tizio, credo, dico: butta via quello. E sul buttare via la penso ancora così. Adesso ho 50 anni. Prima di salutarvi volevo invece leggervi un pezzo che mi è arrivato, perché quando mi mandate i racconti ho sempre la sensazione, cioè mi domando sempre che cosa abbia spinto a scrivere quella cosa piuttosto che un'altra, o anche semplicemente un pochettino cosa vi abbia spinto a raccontare spesso delle cose molto intime. E oggi mi ha scritto Francesco, che probabilmente è un nome finto: ciao Matteo, mi capita di ascoltarti condizionato dal lavoro, e vabbè, devo dire che istighi sempre, grazie al tuo racconto, la mia voglia di leggere e di scrivere, e quindi la colgo. A volte mi capita di secondarla, a volte no. Insomma, ora questa voglia mi è rimasta e si è materializzata in un istante. Ho buttato giù due righe, te le invio, non so se le leggerai, eccetera eccetera, e non so nemmeno se riuscirò ad ascoltarle. Ho pudore di me e delle cose che scrivo. Grazie dell'emozione che il programma dà, eccetera eccetera. Francesco, non leggerò in questo momento quello che ha scritto Francesco, perché non l'ho ancora letto e non so che cosa sia. Lo metto da parte e poi lo leggerò insieme al resto. Questa cosa del pudore mi ha molto colpito, però. Ho pudore di me e delle cose che scrivo, e quindi a maggior ragione grazie. Voi siete qui, @radio24.it, per mandare i vostri racconti. Grazie a voi, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Marisa, parlava della prima frase della nostra vita. La storia di domani, invece, è la storia di Elisabetta e racconta del nostro mentore. Bigio era l'amico di papà. Bigio era il tesoro che tutti cercano nella vita, ma che non sempre trovano. Bigio ha rappresentato un'epoca, un simbolo, e non solo per me. Lui mi aveva dato un soprannome. Io ero la passionaria. Non sapevo da dove venisse questo nome. Pensavo l'avesse inventato lui. Ma la parola mi diceva così chiaramente quel che pensava di me, che io ne ero orgogliosissima.